Tempo di sport. Già si sapeva da ieri, avrebbe rinunciato a Chiellini, forse a Buffon. Invece le ultime notizie che arrivano da Torino dicono che Buffon quasi certamente sarà in porta, ma nel frattempo è arrivata un'altra brutta notizia, perché mancherà certamente Sissoko, che è accusato nell'allenamento di ieri, leggo da un'agenzia appena arrivata, una distrazione muscolare a una coscia. E dunque due assenze come quelle di Chiellini e Sissoko in una partita di questa importanza. Chiellini, perno difensivo oggettivamente della Juventus in queste, insomma, in queste giornate, in questo periodo, e Sissoko, da quando era rientrato, insomma, motore indiscutibile del centrocampo, anche se poi la qualità arriva da Marchisio, ma insomma in Sissoko è presente qualità e soprattutto tanta quantità. Due assenze pesanti in questa immediata vigilia della partita con il Bayern. Buongiorno Fabio Tavenni. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Oh, rigorosamente in diretta, perché come è noto il calcio non rispetta nemmeno le feste comandate, no? Quindi che no, si... anzi, devo dirti che tutto sommato ci può anche stare. Sì, certo. Se ogni tanto anche le partite di Coppa hanno la possibilità di essere viste in giornate di festa, direi che non è male. Insomma, questo è giusto. Questo è giusto, resterebbe da stabilire che cosa rispetta ancora il calcio, no? Soprattutto dopo aver visto cos'è costato a Roma e Lazio in termini di ordine pubblico, e a Juventus e Inter in termini disciplinari, cos'è costato quella doppia esibizione gloriosa tra sabato e domenica. Ma questo è un altro discorso che semmai faremo più avanti. Allora, una Juventus, dicevo all'inizio, perché è appena arrivata la notizia di questo forfait di Sissoko, che certamente si presenta in condizioni tutt'altro che ottimali a questa partita decisiva. È vero che basta il pareggio, sentiremo più tardi Ferrara sottolineare che la Juventus non può permettersi di giocare per il pareggio, perché sarebbe troppo pericoloso giocare 90 e fischia minuti sul filo del rasoio. Perché la Juventus deve avere paura del Bayern, oppure perché può permettersi di non averne? Ma guarda, io credo che la paura sia sempre nemica, e quindi non si debba mai avere paura di niente e di nessuno. Quando sento parlare di finale mi sembra che siamo veramente lontani dal vero, perché nelle finali nessuno ha due risultati su tre. Solitamente nessuno gioca in casa, perché le finali si fanno in campo neutro, e quindi quando sento coniugare la parola finale, anche se non è un verbo, sinceramente mi viene un po' il brivido, anche se capisco che la semplificazione sia necessaria in certi casi. Guarda, a parer mio la Juventus andrà valutata sulla quantità di energie mentali che avrà dovuto impiegare, e lo sapremo soltanto stasera. Non è una valutazione preventiva che possiamo fare, la quantità di energie mentali che ha consumato sabato sera contro l'Inter. Questa mi sembra la prima cosa della quale la Juventus non deve aver paura, ma può aver timore. Detto questo, sai anche tu che le partite a volte si mettono in maniera particolare già dai primi minuti, quindi nel caso in cui la Juventus dovesse sbloccare subito il risultato, beh, insomma, questo le metterebbe proprio la partita in discesa. Nell'eventualità opposta, cioè che fosse il Bayern ad essere subito pericoloso e magari anche ad andare in vantaggio, ecco che potrebbe venire un minimo di paura. Nel caso in cui, e facciamo dunque la terza ipotesi, il risultato stesse in bilico per molto tempo, ecco che nell'avvicinarsi ai minuti finali può anche essere che il Bayern butti dentro tutto quello che ha. Sappiamo, e non è un modo di dire, che i tedeschi fisicamente non temono nessuno, e quindi in un salto un po' così all'arma bianca possono diventare pericolosi. L'assenza di Sissoko secondo me è molto grave, unita a quella di Chiellini. Io credo che se andiamo a pesare le assenze, l'assenza di Toni è impalpabile per il Bayern, perché sì, Toni non è stato un fattore quest'anno. L'assenza di Ribéry pure, perché Ribéry non ha praticamente mai giocato. Gomez e Olic sono comunque due attaccanti pericolosi, anche se, chiaro, la caratura di Klose forse è anche più alta, però anche quest'anno Klose praticamente non si è mai visto. Le assenze di Chiellini e Sissoko, nell'eventualità in cui i giocatori del Bayern di Monaco vengano avanti in massa nel finale, queste sono situazioni che penalizzano la Juventus, secondo me, perché Chiellini e Sissoko in quelle fasi io credo che potessero essere importanti, insomma. Con un'altra variabile a rischio, che è la condizione di Buffon, nel senso che Buffon ha detto di sentirsela, e quindi quasi certamente ci sarà, anche se per il momento e per queste ore il quasi è ancora d'attualità. Non c'è dubbio che se dovesse saltare Buffon in partita, Cioè, se questo menisco non facesse giudizio per questa ultima ora e mezzo, perché poi da, da domani in avanti Buffon ha già detto che si, si mette in malattia per questo intervento, beh, io credo che una sostituzione in corso, oltre a levartene una, credo che psicologicamente sarebbe, sarebbe una bruttissima botta per la Juve. Sì, stiamo davvero facendo sempre tutte le, la, la casistica più negativa. Beh, è così. Che dobbiamo, è giusto parlarne prima, perché parlarne dopo è troppo facile, certo. È vero. Però credo anche che se Buffon dirà al suo allenatore nella, nella riunione tecnica di metà pomeriggio che se la sente, che ce la fa, credo che Ferrara debba schierarlo, perché comunque anche un Buffon sotto il par per i suoi standard è comunque sempre un Buffon che dà più garanzie di chiunque altro. Comunque è vero, c'è un fattore di rischio, però nel momento in cui perdi Chiellini, io credo che Chiellini fosse stato abile arruolato, avrebbe giocato accanto alle Grottaglie. Ferrara ha detto le Grottaglie avrebbe giocato lo stesso, ma secondo me sarebbe stato fuori Cannavaro. E, insomma, già avere un Cannavaro che nelle ultime apparizioni non è sembrato sicurissimo e un Buffon a mezzo servizio senza Chiellini, che comunque è uno dei difensori più forti che il nostro campionato possa esprimere, ecco che tutto questo non dico che andrebbe a compensare il fatto che la Juventus ha due risultati utili su tre, però certamente sono dei fattori di preoccupazione. Poi devono preoccuparsi anche quelli del Bayern, perché la Juventus ha un arsenale offensivo e nei confronti della difesa del Bayern il gol lo può trovare in ogni minuto, sì. Sapendo che ogni gol che la Juve fa e il Bayern deve farne due, beh, insomma, certo. io starei tranquillo. Ma sì, ma difatti non c'è dubbio su questo, però non è stata una vigilia fortunata, ecco, mettiamola così, perché perdere due pezzi come Chiellini e Sissoko, cioè proprio quei due, no? Che fisicamente importanti, sì. Proprio nel giro di poche ore dovendo giocare contro questi armadi, no? Che poi non hanno molto più del fisico, direi. Quando quando buttano la palla dentro e vanno dentro a catapulta, magari può succedere. È ben per quello che Chiellini era fondamentale e Sissoko quasi. Adesso giocherà Poulsen con 90 probabilità su 100 e si piazzerà sulla destra del centrocampo con Marchisio a sinistra e con Melo centrale. Questo perlomeno è quello che si immagina al momento. Comunque Poulsen non ha fatto malissimo quest'anno, cioè l'anno scorso era andato molto peggio. Quando è stato chiamato a giocare ha fatto il suo, il suo non certo. È mai una cifra altissima, però insomma diciamo che può portare dell'acqua, poi la qualità la devono garantire. No, diciamo che se quest'anno c'è stato nella Juventus un giocatore da rendimento costante anche nei momenti in cui la Juventus ha avuto flessioni inquietanti, questo è Poulsen, sì, assolutamente. Vero. Allora, questo è un primo paradosso di giornata, nel senso che la Juventus che gioca in casa, che può permettersi due risultati su tre, comunque è costretta a una vigilia di notevole sofferenza. L'altro paradosso è che il Milan, che invece sta viaggiando a una media siderale addirittura nelle ultime partite, ha un problema comunque a sua volta stasera, perché non è ancora qualificato e anche il modesto Zurigo, che ha già fatto lo scherzo all'andata a San Siro, comunque rappresenta un ostacolo in qualche maniera da eliminare, perché se il Milan non vince, qualche problema rischia ancora di averlo seriamente. Ma se non vince deve informarsi sul risultato di Marsiglia e il Marsiglia deve battere il Real Madrid. Il Real Madrid ha vinto 3-0 all'andata, ma non è quello, non è lo scarto, quella la cosa importante. È impensabile che il Real perda tipo con l'Alcorcon. Però il Milan, come la Juventus, ha la possibilità, e anche come l'Inter poi domani, ha la possibilità di non accendere nemmeno la radiolina, nel senso che Milan va lì, fa la sua partita, vince tranquillo. Tra l'altro la qualificazione se l'è costruita lontano da San Siro, quindi c'è anche questo da dire. C'è anche da dire che lo Ti stiamo perdendo, Fabio, sta sparendo la voce di Fabio Tavelli. Allora ripristiniamo il collegamento, ne approfitto soltanto per aggiornare la situazione allenatori. È saltata la nona panchina nelle prime 15 giornate e 9 panchine su 20 vuol dire che se appena appena un presidente nelle ultime due giornate che mancano alla sosta natalizia, e cioè domenica prossima e quella dopo ancora, riesce a farsi venire in mente di esonerare l'allenatore, insomma si arriverebbe a uno stupendo 50% già fin da prima di metà campionato, perché siamo a 15 giornate, altre due si giocano da qua a Natale, si arriva a 17, 17 per 2 fa 34, le giornate sono 38, il che significa che insomma, si batterebbe probabilmente un nuovo record. La panchina saltata è quella di Catania, dove è stato esonerato Azzori. Al suo posto è già arrivato Mihajlovic. Vi dirò poi, in base alle notizie dell'agenzia che sono arrivate, di come non pare che la piazza catanese non sia del tutto entusiasta di questo arrivo. Vi ricordo anche che 800 24 00 24 è il numero per intervenire in diretta. In attesa di ripristinare l'argomento internazionale con Fabio Tavelli, anzi nessuna attesa perché è tornato tra noi. Ari, buongiorno Fabio. Eccomi qua, perdonami Gigi, un po' no. Problemi di copertura, strano perché insomma ormai dovremmo essere sempre copertissimi. I problemi di collegamento ci sono. No, capita. Si diceva di questo paradosso Milan a Zurigo, non è qualificato, è vero, però tu stavi anche ridimensionando, dicendo che intanto di fronte c'è lo Zurigo, ma soprattutto perché il Milan rischi bisogna che il Marsiglia batta il Real, cosa che metterebbe il Real nelle condizioni di non vincere più il girone. Insomma, se ne devono verificare di casualità, perché il Milan rischi davvero. Devono verificarsene tante, e credo davvero che se il Milan riuscisse a non qualificarsi, lo metto molto tra virgolette, compirebbe davvero un'impresa al contrario, sì, da annati. E siccome il Milan è una squadra che a me personalmente, ma credo a tutti a livello europeo, dà delle garanzie decisamente superiori rispetto alle altre competizioni, io credo che davvero il Milan andrà a Zurigo, farà la sua partita da subito, cercherà di mettere la palla in porta. Lo Zurigo non è in grado, lo Zurigo tra l'altro anche nel suo campionato sta andando male, quindi non è una squadra che in un momento nel quale possa, cioè non ha nemmeno la speranza di andare in Europa League, cioè non veramente, per lo Zurigo è un amichevole di lusso, di prestigio, mettiamoci tutto quello che vogliamo, ma non è niente di più. E quindi sinceramente il Milan che ho visto prima la Sampdoria, il Milan che si è visto ultimamente non può pensare nemmeno lontanamente di perdere a Zurigo. Poi per carità, tutti i tifosi rossoneri facciano professione di scongiuri, perché però sai, noi cerchiamo di dire delle cose a prescindere dalla scaramanzia. Sai cosa credo, Fabio? Che il pericolo più serio sarà, perché quasi certamente lo sarà, il campo ghiacciato. Perché il Milan ha dei danzatori, no? Sia in mezzo che soprattutto davanti. E il campo ghiacciato, oltre ai pericoli di incolumità che presenta, insomma, non è, diciamo, la superficie ideale. È vero che la finta d'anca da fermo di Ronaldinho sul ghiaccio l'avversario lo manda contro la rete metallica, questo sì. Però è anche vero che nel frattempo l'equilibrio devi trovartelo te, per controllare il pallone, per andare avanti, eccetera. Lui ha già qualche problemino, no? Muscolare, che ha accusato domenica. Esatto. Campo ghiacciato potrebbe essere un'incognita, però insomma non si va oltre quella, ecco, diciamo. No, ma poi davvero, mettiamo che il Milan, io non credo che il Milan possa perdere questa partita, ma mettiamo che il Milan non la vinca, a parte che è quasi la stessa cosa, mettiamo che il Milan non la vinca, cioè io non credo davvero che il Real possa perdere a Marsiglia. Oddio, può succedere anche, però devono capitare davvero due cose, cioè mentre la Juventus può capitarne una sola, e cioè certo, che il Bayern di Monaco vinca, e però lì è una partita sola, sai, quello può anche succedere. Cioè devono capitare due cose importanti, cioè che il Marsiglia vinca e che il Milan perda o comunque pareggia, cioè, voglio dire, mi sembra sì, anche col pareggio il Milan, se l'Olympic vince, non passa. Quindi mi sembrano due cose sinceramente, cioè è molto più simile al girone dell'Inter quello del Milan, nel senso che ci sono due partite che ballano, mentre invece quello della Juventus ce n'è solo una. È ancora praticamente tutto aperto, poi quello dell'Inter ne parleremo domani, ma quello dell'Inter è ancora più aperto perché tutte e quattro si possono tutte qualificare. Tutte e quattro, sì, esatto. È l'unico girone nel quale possono passare tutte e quattro. Sì. Con che cos'altro ci possiamo dilettare stasera? Forse Wolfsburg Manchester, forse, perché per il resto non mi sembra che il panorama oltre all'italiano offra un gran che, No, io tu sai, di solito do sempre una partita d'alternativa, ma io credo che stasera sì, l'alternativa vedere Olympique Real Madrid se proprio, sì, certo, se proprio, però per il resto direi di stare sulle italiane e basta, insomma, concentrarsi su quello, perché ripeto, non sono finali, perché continuano a dire come tre finali sono, non è vero, non sono finali, le finali sono altre cose. Poi se ci mettiamo a parlare di finali prima ancora degli ottavi, allora quando andremo in primavera cosa faremo? Allora non siamo messi bene, su questo hai ragione, no. Fabio, chiuderei qui la prima parte di questo collegamento, cioè quella dedicata alla serata. Nella seconda ci proiettiamo un tantinello già su domani e magari ripassiamo qualche qualcosina di quello che è successo tra Spagna, Inghilterra, Francia e Germania nell'ultimo fine settimana. Oh, dopo aver sviscerato la vigilia di Juventus e Milan, soprattutto di Juventus, che lo ricordo a chi entrasse in collegamento solo in questo momento, deve rinunciare non solo a Chiellini ma anche a Sissoko nella partita di stasera, avendo comunque ancora in forse, sia pure un po' lontana, anche Buffon, è arrivato il momento di interrogare Fabio Tavelli e di chiedergli come fa il Barcellona a uscire domani sera. Cioè, come, perché sto guardando questa classifica pazzesca del cosiddetto gruppo F, ed esiste una remota possibilità in base alla quale il Barcellona può uscire, ma deve perdere 3-0, però, o sbaglio? Sì, esatto. Deve perdere 3-0, perché con la vittoria che ha avuto il Barcellona contro l'Inter, diciamo che ha fatto quasi tutto per riuscire a qualificarsi, però in realtà le manca ancora un punto, cioè potrebbe anche non averne bisogno, nel senso che se perdesse con uno scarto inferiore a quello che hai detto tu potrebbe passare lo stesso. Da prima, tra l'altro da prima, perché ha vinto 2-0 in casa con la Dinamo Kiev, no? Esatto. Quindi il paradosso di questo girone incredibile è che il Barcellona al momento è primo. Se dovesse... facciamo la prima ipotesi. Facciamo la prima. La Dinamo batte il Barcellona, sì. La Dinamo sale a quota 8, sì. E diciamo che Inter e Rubin Kazan pareggiano, arrivano tutte e due a 7 e sono non c'è fuori. Bisogno di far, certo. Non c'è bisogno di far dei, cioè, ovviamente la precondizione è che la Dinamo batta il Barcellona, perché il Barcellona nel momento in cui pareggia arriva a 9, può essere raggiunta dall'Inter o dal Rubin Kazan, ma in quel momento, cioè, non può essere raggiunta da tutte e due, quindi dobbiamo pensare a una sconfitta del Barcellona contro la Dinamo. Se Inter o Rubin dovessero vincere, a quel punto lì andrebbero a 9 e andrebbero a scavalcarla, e allora entrerebbe in campo il confronto con la partita d'andata del Barcellona contro la Dinamo, della Dinamo Kiev, e allora ecco che a quel punto lì tocca pensare allo scarto. Ora, per carità, siamo nel campo delle ipotesi, però sai, anche le ipotesi a volte si verificano. No, ma anche perché c'è stato questo incredibile equilibrio in questo girone per 5 giornate su 6, e adesso diventa difficile pensare che improvvisamente alla sesta, o comunque alla vigilia, non è logico pensare che alla sesta finalmente si impongano i valori, no? Perché se non si sono imposti fino adesso, è possibile che questi conteggi continuano ad avere un senso. Assolutamente. Detto questo, poi è chiaro che, cioè, il Barcellona ha vinto 2-0 in casa contro la Dinamo Kiev. Per carità, può sempre perdere 3-0, anzi deve perdere 3-0 a Kiev. Può succedere, ma lo dobbiamo tenere come ipotesi che poi accada. A me francamente sempre. Però non, guarda, il Barcellona in questa Champions League ha già fatto delle cose strane, perché ha perso in casa Rubin Kazan, certo. non ha giocato bene in trasferta quando è andata anche a Kazan, quindi chi lo sa, cioè, secondo me può perdere, che perda 3-0 non ci credo neanche se lo vedo, però potrebbe anche perdere, e nel senso che se perde anche 1-0, e poi sono problemi dell'Inter, perché l'Inter a quel punto lì deve vincere, non le basta più il pareggio. Ecco, pareggio che invece in partenza le basta, purché per 0-0 1-1, non 2-2, no? Se non sbaglio. Esattamente. Allora, visto che questa è la situazione dell'Inter, e così chiudiamo questo capitolo così macchinoso, il problema dell'Inter si chiama per l'appunto campioni di Russia, che hanno già finito il loro campionato, visto che oltretutto voi a Sky lo trasmettete e da due stagioni a questa parte gli date grande visibilità, e non è detto che tutti lo seguano, quorum ego avrebbe detto qualcuno, a che punto è sia di condizione, di forma, di cosa, questo Rubin Kazan che, scanso equivoco, ha già rivinto il campionato comunque, Guarda Gigi, adesso possiamo raccontarci molte cose, però la verità è che quando una squadra finisce nel mese di novembre un campionato e poi rimane fermo per un po' di tempo, non può non averne delle ripercussioni. Lo abbiamo detto tante volte anche in passato, quando erano i giocatori della Dinamo Kiev, sì. I Lobanovsky, cioè giocatori ucraini o giocatori comunque di campionati che venivano dalla ex Unione Sovietica, cioè loro sono molto pericolosi in settembre, ottobre, novembre, a dicembre diciamo un po' meno, e ricominciano a diventare pericolosi a marzo, aprile, quando rifanno completamente la preparazione. Diciamo che le ultime due giornate della Champions League per loro non sono mai state giornate grandemente positive. Tra l'altro loro si sono anche incontrati con Rubin Kazan, con la Dinamo Kiev, ed è finita 0-0, tra l'altro nel ghiaccio, quindi, cioè, si fa molta fatica a giocare da quelle parti. I giocatori sono stanchi perché il campionato l'hanno appena finito. È chiaro che daranno tutte anche di più perché ormai il traguardo è quello. Però sai, il campionato lo hanno già finito, qualcuno magari sta già pensando alle vacanze. Io credo che anche nella testa del giocatore più equilibrato ci possano essere dei momenti, non voglio dire di libertà, però di minor tensione. Invece l'Inter la tensione ce l'ha, quindi, insomma, io credo che sinceramente sia un ostacolo da tenere in considerazione, da rispettare, da affrontare nella migliore modo possibile. Però onestamente mi sembra uno degli avversari migliori. È come trovare un'italiana a giugno, certo. con tutto quello che ne consegue. Sì, quindi da affrontare anche senza quella paura, quel timore, quel freno a mano tirato con cui l'Inter ha affrontato quasi tutte le partite di Coppa di quest'anno e magari anche la Juventus sabato sera. Sì, c'è dubbio. Il Rubin Kazan è l'ultima partita di campionato, l'ha giocata il 21 di novembre, quindi insomma, è difficile mantenere senza giocare partite ufficiali la tensione anche fisica oltre che mentale. Cioè, secondo me quella mentale la perdi, cioè la sì. Perdi sicuro. Poi va bene, loro sono arrivati, hanno vinto il campionato pareggiando con lo Zenit San Pietroburgo e si sono anche l'hanno vinto. Credo che questo segni la fine del collegamento di oggi con la postazione di Fabio Tavelli a Sky Sport 24. Lo ringraziamo evidentemente in contumacia, perché non è possibile ringraziarlo in diretta. L'appuntamento comunque è già fissato con Tavelli, ovviamente per giovedì, per quando tireremo le somme di tutti questi discorsi fatti sino ad ora, e ci sarà tempo poi anche per illustrare, secondo abitudine, gli appuntamenti con il calcio internazionale di club, in questo caso del fine settimana, che è una buona abitudine presa, insomma, e mi sembra che poi ne valga abbastanza puntualmente la pena. A proposito di tormenti internazionali, e poi così cambiamo davvero capitolo, mi pare ci siano anche quelli del Real Madrid, perché domenica, e ne avrei parlato con Fabio Tavelli prima, gliene riparlerò giovedì in proiezione di Valencia Real, che è il match clou di domenica prossima in Spagna. Cristiano Ronaldo si è fatto cacciare assurdamente e con molta ignominia domenica, sabato sera, giusto dopo aver risolto finalmente una partita con l'Almeria che era diventata molto molto difficile. Nel frattempo è stata notificata in maniera ufficiale la pubalgia a Kakà, e questo significa che il Real Madrid arriva alla sosta natalizia senza Kakà e Ronaldo, presumibilmente subirà una discreta squalifica. Non è un handicap da poco per una squadra che già vive di sussulti di solisti, ma non certamente di grande coralità, a differenza del Barcellona in questa prima fase. Allora, prima dell'intervallo per i mercati, perché ripeto che non soltanto siamo in diretta tutti oggi a Radio 24, ma sono regolarmente aperti anche le borse, e quindi ve ne diamo conto tra poco, sentiamo un ascoltatore campione, gli altri li rinviamo a dopo l'intervallo. Alessandro, provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Volevo solo così fare presente un articolo della Gazzetta dello Sport dove vedeva il grande Rocco mettere una formazione del 61-62 con Rivera, Danova, Aldassini e Borison. L'ho letto stamattina, no? Mi pare che sia Alberto Cerruti che, no? Che ha ricordato questa... Il grande Paron, 50 anni fa, aveva già in mente il Milan Fantasia. Certo, no, ma per dire, credo che... esatto, ma lei ha detto bene, e mi è piaciuto molto questo ricordo di Rocco. Ricordo di Rocco che dice: è vero che oggi Alberto Cerruti scrive: è vero che oggi il Milan sta giocando con tutti questi attaccanti, con un modulo così spregiudicato, eccetera. Ha pubblicato anche le tabelline con Seedorf che sta alle spalle di Pato Borriello e Ronaldinho. Esattamente come ricorda Alberto Cerruti, esattamente come Rivera stava alle spalle di Pantera Danova a destra, Paolone Barison compianto a sinistra e un certo Cosè Altafini al centro. Dietro c'erano due mediani come Trapattoni e Dino Sani, esattamente come adesso ci sono Ambrosini e Pirlo, e dietro c'è Pirlo, e dietro c'era una linea difensiva a quattro che in questo caso è schierata in linea perché oggi a zona si gioca, mentre ai tempi di Rocco Maldini e Salvatore si dividevano diversamente i compiti, facendo Salvatore lo stopper sulla punta centrale avversaria e Cesare Maldini, il papà di Paolo, il libero. Grande suggestione e da una parte, e comunque grande ripasso di storia dovuto ad Alberto Cerruti sulla Gazzetta dello Sport di oggi, è grande ripasso di storia perché ogni tanto è bene ricordare come nel calcio, a dispetto dei profeti, e non sto assolutamente parlando di Leonardo che è una persona di rara serietà, a rispetto dei profeti e degli imbonitori sia difficile inventare ancora qualcosa nel calcio di oggi. Dicevo che è saltata in serata di ieri la nona panchina di Serie A, è quella del Catania, non c'è più Gianluca Azzori, c'è al suo posto Sinisa Mihajlovic, reduce lo scorso anno da un'avventura non proprio esaltante a Bologna, perché toccò poi a Papadopoulos subentrare nel finale per salvare il Bologna. Sentiamo le prime parole di Mihajlovic da allenatore del Catania. Io ho cominciato in Serie A, adesso continuo in Serie A e sicuramente vado orgoglioso di quello, ma comunque sempre ringraziando Bologna e ringraziando Catania che mi ha dato possibilità di lavorare. Vabbè, classifica, sai, noi adesso non dobbiamo guardare classifica, noi dobbiamo guardare prima partita che ci viene e così pensare partita per partita. Classifica è corda perché noi abbiamo 9 punti, ma ci sono anche altre squadre che sono a 12, perciò basta fare 2-3 risultati positivi e sali subito. Ma è lo stesso, sbagli 2 partite e vai subito in giù, perciò questo sarà così fino a fine. Un'agenzia in arrivo da Catania, citando i siti dei tifosi e citando insomma, fonti diciamo non ufficialissime, ma in ogni caso che danno un po' un'idea dell'indice di gradimento, testimoniano di un'accoglienza non entusiasta a questa scelta di Mihajlovic. Staremo a vedere se hanno ragione loro o se ha avuto ragione la società. Giuseppe è chiamato da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Buongiorno a lei. Senta, io volevo dire qualcosina, così una mia idea su queste infortuni, su queste contratture, slogature, distorsioni e via dicendo. Ma non sembra che caricano troppo in allenamento dopo tutte queste partite che fanno? Non sarebbe bene fare degli allenamenti un po' più, sempre di più con la palla, senza andare in palestra, senza sforzare, cioè con degli stretching e poi fare sempre del movimento con palla, perché il muscolo ha bisogno di tonificazione, non di, non so, di essere... non di sollecitazioni troppo violente, dice lei. Come non so, come fanno i bodybuilding, come in queste cose qui. Il muscolo non deve essere definito, il muscolo deve essere allenato. Sì, appunto, nel bodybuilding non so quanto sia, io non mischierei queste due situazioni. Il muscolo deve essere allenato, certo, però se il muscolo... Se il muscolo gioca troppo, cioè se è troppo in tensione per le troppe partite e a maggior ragione con il freddo, io credo che poi qualcosa si rischi proprio per quello. Cioè, questa è una vecchia storia che ormai riguarda un po' tutte le squadre, un po' tutte le società, un po' tutte le metodologie. È trasversale e universale ormai. Perché? Ma perché, l'abbiamo detto milioni di volte e soprattutto ce lo dicono i medici sportivi, non si fa più la preparazione adeguata che si faceva una volta a inizio stagione, che era quella che poi ti permetteva una condizione costante. Nel calcio di una volta, probabilmente, dove oggettivamente si correva meno, basterebbe forse un allenamento, come dire, conservativo in certe fasi della stagione, come potrebbe essere questa. Adesso evidentemente non basta e quindi gli infortuni diventano sempre più frequenti. Immagino che lei si riferisse a Sissoko e Chiellini, che indubbiamente due in 24 ore, anzi se è vero che, cioè se è vero e non ne dubito, se quello che riferisce l'agenzia è confermato, è stato l'allenamento di ieri a far saltare entrambi, cioè sia Sissoko che Chiellini. Ma d'altra parte immagino anche che alla vigilia di una partita così importante come quella con il Bayern, insomma, no, non puoi permetterti di essere troppo leggero nella... cioè di andare soltanto sul defatigante, perché poi il giorno dopo ti ritrovi davanti questi armadi che di qualità tecnica ne hanno poca, però di corsa e di potenza ne hanno tanta, e quindi qualcosina bisognava rischiare. Evidentemente si è rischiato, ripeto, in questa situazione di fondo di precarietà. Arriviamo proprio alla vigilia, cioè torniamo alla vigilia di Juventus-Bayern con le considerazioni, una parte delle considerazioni di Ferrara. Qui si gioca il passaggio del turno, qui si gioca la qualificazione e tanti altri aspetti importanti, e per la squadra chiaramente e per la società. È una finale vera e propria. È una partita che entrambe le squadre cercheranno di giocare e daranno sicuramente tutto ciò che hanno. È una finale e una ne uscirà vincitrice. Quante volte ha detto è una finale? Probabilmente c'era con lui, allora, Fabio Tavelli, prima, quando diceva basta queste finali, no? Che in effetti c'ha ragione, è la partita decisiva di un girone di qualificazione, poi ci saranno gli ottavi, i quarti, le semifinali e poi finalmente la finale. Però è un modo di dire, evidentemente è un modo di caricare una vigilia che secondo me è già abbastanza carica di suo e andrebbe semmai sdrammatizzata. Sentiamo come l'ha vissuta e come la sta vivendo invece il capitano Del Piero. Giocare ogni tre giorni è dispendioso sotto il profilo atletico, ma anche sotto il profilo psicologico. Recuperare queste due cose al massimo è molto difficile, ma è l'unica soluzione. Questo discorso si può fare oggi, ma si poteva fare un mese fa, si poteva fare anche altre. Sempre, fortunatamente, o quasi sempre, per le gare che contraddistinguono la Juventus. Questo significa un'attenzione, una concentrazione che deve essere superiore alla media. È una delle caratteristiche che spesso fa la differenza. Ce ne vorranno stasera di caratteristiche che facciano la differenza, perché è indubbio che insomma, la Juventus affronta questa partita in condizioni oggettivamente difficili, e a questo punto senza uomini chiave come... Io ricorderei anche Iaquinta, già che ci siamo, perché mi pare che l'attacco della Juventus, da quando si è infortunato seriamente Iaquinta, abbia perso non poco. Quindi avere fuori... con l'eccezione di Marchisio, direi le tre pedine migliori che la Juventus ha potuto mostrare in questo periodo, e una per reparto. Dunque Chiellini dietro, Sissoko in mezzo e Iaquinta davanti, ripeto, a parer mio i tre migliori in assoluto, tolto Buffon che è fuori categoria e tolto Marchisio che a sorpresa è diventato il protagonista forse assoluto della stagione. Beh, insomma, tre pedine così in tre settori diversi del campo indubbiamente pesano. Diceva prima giustamente il nostro ministro degli esteri Fabio Tavelli che assai più serena, nonostante la partita sia comunque a sua volta assai importante, per non dire decisiva, e assai più serena la vigilia del Milan a Zurigo. Sentiamo quella di Leonardo in particolare. Credo che la squadra vive sicuramente un momento positivo, ma c'è da riconfermarti tutti i giorni, per quello che credo che sia un'altra opportunità e sicuramente una partita, diciamo, di alta importanza. Quando hai a disposizione tanti giocatori, di là se quelli esperti o quelli giovani, ma quando hai tutta la rosa dentro sicuramente coinvolta, diciamo, in quello che è il nostro progetto, io credo che quella sia la cosa fondamentale. Va da sé che è finita questa parte di conferenza stampa in italiano, Leonardo senza muoversi da lì e senza dover ripassare i dizionari ha sostenuto la stessa conferenza stampa in inglese. Probabilmente se gliel'avessero chiesto in tedesco avrebbe parlato anche quella, ne parla 5 di lingue, non so esattamente quali siano, però credo che una sia il giapponese, quindi forse la sua mediocre cultura non contempla il tedesco. Pensate un po' che limiti ha questa persona. Non so dire se l'italiano lo parli meglio lui o Gattuso, possiamo sempre fare subito un paragone immediato sentendo per l'appunto la vigilia di Gattuso, non tanto su questa partita che non lo vedrà protagonista, quanto la vigilia su un periodo che dovrà poi portare a una decisione finale sul suo di futuro. A mio mio futuro se ne parlerà, come ha detto Gagliani, fra una ventina di giorni. Io voglio soltanto di stare bene con me stesso, perché la cosa è più importante. Ho voglia ancora di giocare a calcio perché mi sento forte, e in questi fra 20 giorni troveremo la soluzione sicuramente. Ma io devo dire che assicurazioni, per il tipo di persona che sono, non ho bisogno di assicurazioni, perché l'assicurazione me le vado a trovare da solo. Però ho bisogno, è da 14 anni che gioco a livello professionistico, ho avuto sempre la fortuna di trovare persone ed avermi dato tante responsabilità. Io ho bisogno di responsabilità. Con tutto l'affetto e la simpatia che Rino Gattuso suscita, non c'è dubbio, da un rapido sondaggio fatto tra redazione e regia, che l'italiano lo parli effettivamente meglio, Leonardo. No, segnala un ascoltatore di nome Rosario che Mourinho sta rispondendo indirettamente, cioè ha già risposto a Mazzola. Il messaggio di Rosario è: ma Mourinho risponde solo alle domande che gli sono comode, adesso ce l'ha anche con Mazzola, non so come l'abbiano sopportato al Chelsea. Allora, mi sono un pochino documentato, pare che Mourinho, visto che ieri Mazzola aveva detto grosso modo di aver capito, comunque di intuire che se per caso, nella remotissima ipotesi in cui l'Inter dovesse essere eliminata domani sera, si concluderebbe poi a fine stagione l'intera avventura di Mourinho all'Inter, pare che Mourinho abbia risposto oggi a domani in conferenza stampa una cosa tipo: non è Mazzola che firma gli assegni all'Inter, e questo è certamente vero. È altrettanto vero, per quanto mi risulta, che Mazzola è abbastanza amico però della persona che firma gli assegni, è abbastanza in grado quindi di, come dire, di captarne gli umori e le intenzioni a breve, a medio e anche a lungo termine. È il momento è il momento della rubrica. L'8 dicembre di chissà che anno avrà scelto oggi per il Sembra Ieri Nicola Filippone. Sembra Ieri. 8 dicembre 1985. A Tokyo la Juventus conquista la sua prima Coppa Intercontinentale battendo ai calci di rigore l'Argentinos Juniors. I tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2, con gli uomini di Trapattoni costretti per due volte a rimediare al vantaggio argentino. Il protagonista principale del trionfo bianconero è il solito Michel Platini, autore del rigore decisivo. Il francese in precedenza aveva anche siglato l'1-1, sempre dagli 11 metri, e regalato a Laudrup l'assist del 2-2. Inoltre, si era visto annullare ingiustamente una rete spettacolare dall'arbitro tedesco Roth. Il ricordo di Platini sdraiato sul prato di Tokyo, quando si vede qualche giocatore, cioè tutti i giorni si vede un giocatore, da noi perlomeno, con la bava alla bocca rincorrere l'arbitro perché l'arbitro ha sbagliato una decisione, come accadeva allora, accade oggi, accadrà sempre. Bene, quel giorno quest'arbitro, anzi male, quel giorno quest'arbitro annullò veramente in maniera inspiegabile un gol capolavoro di Platini, uno dei più belli della sua carriera, che poi Michel a distanza di tempo avrebbe definito forse il più bello in assoluto, e Platini, anziché inseguire l'arbitro come si vede oggi, cadde sul prato e si sdraiò appoggiando un gomito, restando in una posa da Paolina Bonaparte, che è rimasta oltre che immortalata dagli scatti fotografici che poi sono presenti negli archivi e nella memoria di chi vide quella partita, ma insomma che a suo modo fece epoca, proprio per il modo in cui era stata interpretata questa protesta, mettiamola così. Uno dei temi di giornata, che oggi essendo festivo abbiamo volutamente saltato e che riprenderemo probabilmente domani, riguarda il tariffario del giudice sportivo a proposito di quanto accaduto sabato e domenica. Allora, per quanto è successo sabato, è stata comminata una multa di domenica, mi correggo, nel derby di Roma, una multa di 40.000 euro sia alla Lazio che alla Roma. Per quanto riguarda invece sabato sera, una multa di 25.000 euro alla Juventus e di 15.000 euro all'Inter. Il caso in particolare che ha fatto più rumore, e non è una battuta purtroppo, sono state le bombe carta dell'Olimpico. È in corso la solita inchiesta che altrettanto solitamente non porterà a nulla di concreto, ma insomma l'ipotesi che si è fatta strada è che queste bombe carta siano costruite dagli ultra direttamente dentro l'Olimpico, nel senso che i controlli sono dei controlli pressoché colabrodo e su questo non ci piove, ma è anche vero che come dire, i vari pezzetti che poi assemblati danno vita a una bomba carta o altre porcherie di quel genere, probabilmente vengono poi confezionati sul posto. È stato fatto presente che domenica sera all'Olimpico c'erano 195 steward in più del previsto, cioè erano 495 anziché 300. Però è anche vero che non sono stati in grado di non vedo come avrebbe potuto essere possibile, non sono stati in grado di fronteggiare la violenza che si è scatenata tra le opposte fazioni, ma soprattutto nei confronti della polizia, perché non appena cominciato a tirare le bombe carta e la polizia si è sostituita o si è aggiunta, diciamo, al lavoro degli steward, come l'han vista, si sono attirati insieme gli strali di questi gentiluomini. Visto che non era stato possibile ieri ripescare i commenti sul derby romano, ve li proporrei adesso nell'ordine: prima Ranieri e poi Ballardini. Credo che sia una delle più grosse emozioni calcistiche della mia vita, perché ritornare nel mio stadio con la curva tutta piena, insomma, bellissimo, bellissimo. Stiamo facendo bene, stiamo facendo punti, però non siamo cambiati molto da quando invece non ne facevamo. Facciamo ancora degli errori, però ecco, finalmente non abbiamo preso gol. Questo mi sembra che sia il dato molto molto positivo dopo i tre punti e dopo aver vinto il derby. Sì, difatti poi si è trattata una vittoria firmata da Cassetti e alla stessa maniera direi dal portiere, da Julio Sergio, però di una vittoria non meritatissima, perché mi sembra che la Lazio qualcosina di più nel derby complessivamente avesse fatto e in ogni caso non meritasse la sconfitta. Una sconfitta che ha appesantito ancora la situazione di Ballardini, che a questo punto, dicevo prima, 9 panchine saltate su 20 in 15 giornate di Serie A, la possibilità che si arrivi alla decima, e cioè al 50% di panchine saltate, che sarebbe un record assoluto della nostra storia dei campionati, entro Natale, beh, diciamo che l'indiziato principale in questo momento è certamente Ballardini. Sentiamolo dopo il derby. Abbiamo questi punti, dobbiamo tirarci fuori da una situazione che è difficile, però questo è lo spirito, questo è il gioco, questa è l'aggressività che la Lazio deve avere. Io non ho parlato col presidente, penso al mio lavoro, ho fatto i complimenti davvero, ho detto che a tutti, che sono stati davvero grandi questa sera, e quindi questo è quello che posso dire. Una mail da giorno festivo. Le scrivo, ed è firmata Andrea Gratton, le scrivo per quanto concerne un tema apparentemente inflazionato, ma di cui ritengo sia importante continuare a parlare. Stavo guardando la partita Inter-Juventus con tre amici, due interisti e uno juventino, e all'ingresso di Balotelli, al ritorno della discussione sul razzismo, mi è stato spiegato da entrambe le parti che dare del negro a Balotelli non è razzismo, è solo un modo di insultarlo, così come dare del terrone a Cannavaro o del figlio di a qualsiasi altro giocatore. Alle mie spiegazioni di come un conto sia l'insulto, un altro sia l'insulto razziale, e di come quest'ultimo sia un'insindacabile forma di razzismo, sono stato tacciato con argomenti incoerenti ma difesi con rabbia e determinazione. Sono stato tacciato di, e qui la frase si perde, ma mi sembra interessante, e questo che racconta Andrea Gratton, dice: l'amico interista è arrivato a dirmi che lui stesso dà del negro a Eto'o e a Barotelli per incitarli, e lo trovo una discreta forma di tifo, mi sembra. Vorrei dirlo, continua poi Andrea Gratton, che ho lavorato per 6 mesi in una ONG di Amsterdam che si occupava di tematiche antirazziste, e in quell'ambiente sono entrato in contatto con un'organizzazione antirazzista del Regno Unito, quindi credo quindi di essere ferrato in materia. Il fatto però che molti tifosi continuino a questo modo e non si rendano nemmeno conto di cosa sia il razzismo, ci spiegano una volta di più che trattasi di piaga sociale. Sono completamente d'accordo con lei, caro Andrea Gratton. Sono grato a Carmelo Lauricella in regia, a Flavio Suardi, a Franco Piantanini in redazione per l'assistenza e la collaborazione. Buon pomeriggio festivo a tutti.